Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail invece è vivavoce@radio24.it. Ripartiamo dall'Italia. Anche oggi è, sapete, un'altra settimana che si preannuncia decisiva, dopo che è saltata la trattativa tra la compagnia, la CAI, la cordata con Colaninno in testa, e i sindacati. Sapete, insomma, se ne è discusso, se ne discuterà ancora a lungo. La novità è quella, come avete sentito anche in GR24, il commissario straordinario Fantozzi, che ha detto se qualcuno è interessato, se ha manifestazioni di interesse per comprare la parte sana della compagnia che deve essere venduta, si faccia avanti. Oggi la pubblicazione di un bando. Sostanzialmente, chi vuole l'Italia si faccia vivo, dice il commissario straordinario, anche perché i giorni sono contati, non ci sono ancora tanti soldi, anzi la liquidità sta finendo. Cercheremo di capire anche quando potrebbero rimanere a terra addirittura gli aerei all'Italia, non vedere più decollare e atterrare gli aerei della compagnia italiana. Di questo parliamo. Ovviamente Epifani ha detto ieri con Fantozzi tratto, Epifani che sapete è sotto accusa, un po' come i piloti, un po' come gli assistenti di volo, che poi peraltro hanno fatto retromarcia come sindacati perché non hanno firmato l'accordo. Un fronte sindacale che sembra anche rompersi su quelle scene di giubilo che avete visto e sono state anche criticate. Oggi alle 9:30 a Fiumicino ci sarà una manifestazione di diversi piloti e credo assistenti di volo che dicono: noi invece l'accordo vorremmo firmarlo. Insomma, all'Italia ancora in primo piano, e saluto a questo proposito il ministro per le infrastrutture e i trasporti Altero Matteoli. Buongiorno, ben ritrovato ministro. Buongiorno a voi. Così come saluto Piero Fassino del Partito Democratico, benvenuto Fassino. Buongiorno. E come detto, giorni contati. Oggi c'è un incontro importante, tra l'altro tra poco, credo alle 10. A questo proposito starà con noi in apertura, e lo saluto, lo ringrazio, Vito Riggio, che è il presidente dell'ENAC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile. Buongiorno presidente. Buongiorno. Perché da lei vorrò partire per capire cosa potrà succedere proprio tra poco, quando incontrerà il commissario straordinario Fantozzi. 800 24 00 24, alle 9:11 minuti, questo è il numero per intervenire in diretta. Parliamo di Alitalia, la mail vivavoce@radio24.it. All'Italia, come abbiamo detto, i giorni sembrano contati. Nonostante tutto, nonostante quello che sta succedendo, bisogna dire che per il momento i voli sono regolari, non ci sono cancellazioni. È vero, come qualcuno ha detto, la gente ha detto, che si prende assalto ai treni, soprattutto i treni sono quelli che sono più richiesti rispetto agli aerei. Tra poco allora capiremo da Vito Riggio, nell'incontro con il commissario Fantozzi, cosa succederà. Presidente Riggio, allora alle 10 credo è questo incontro con il commissario? Sì, alle 10 siamo. Senta, in attesa di... bisogna capire sostanzialmente, innanzitutto ci chiarisca questa cosa: all'Italia, forse non tutti lo sanno, vola anche oggi con una licenza provvisoria, è così? Sì, il 2 settembre noi abbiamo avuto un incontro con il commissario che ci ha comunicato che, nonostante la chiara crisi finanziaria, esisteva un piano di risanamento connesso a un'offerta che era pervenuta. In base a questo il regolamento ci consente la discrezionalità, non l'obbligo, di rilasciare una licenza provvisoria in attesa che il piano di risanamento rimetta la compagnia nella condizione di liquidità necessaria, non solo per motivi di sicurezza ma anche per l'affidabilità nei confronti dei passeggeri che acquistano i biglietti dei fornitori, eccetera. Testualmente il regolamento dice: la compagnia in ogni tempo deve dimostrare all'autorità di essere in condizione di fare fronte ai suoi impegni. Naturalmente adesso tutti sappiamo che questa offerta al momento è stata ritirata. Io mi aspetto che il commissario oggi ci porti un piano di emergenza che preveda riduzioni di costi e possibilità anche di accensione di mutui, se lo può fare, insomma, una situazione finanziaria alla quale legare la licenza provvisoria, senza di che la licenza provvisoria non sta in piedi. Ecco, se non stesse in piedi la licenza provvisoria, ci sono so che c'è un'istruttoria che durerà circa una settimana, 10 giorni, al termine della quale si deciderà sostanzialmente se questa licenza provvisoria, ci sono i termini per prorogarla oppure no. Si può fare un'ipotesi nella peggiore delle ipotesi, cioè se non si potesse, non ci fossero le condizioni per la licenza provvisoria, all'Italia rischierebbe di rimanere a terra nella peggiore, quando? Ma Guardi, se non c'è un piano finanziario, la licenza non c'è già più, nel senso che la licenza provvisoria è appunto un mezzo che intelligentemente il legislatore europeo mette a disposizione delle autorità di regolazione per consentire dei salvataggi, ma non può essere a tempo indeterminato. Nella mia valutazione personale, ma vedremo più tardi, il commissario nel giro di 3-4 giorni ci deve presentare un piano. Dopodiché, se questo piano è convincente, i nostri uffici devono sospendere il certificato e quindi non potrà volare. Quindi se tra mezz'ora il commissario straordinario viene e dice: guardi, già le dico che nei prossimi giorni i piani non ce ne saranno, la licenza è già di fatto sospesa, è solo una questione poi tecnica di giorni. Eh sì, perché sostanzialmente senza piano finanziario non possono stare in aria aerei, nonostante la buona volontà del personale, ferma la sicurezza che in questo momento è assolutamente garantita, perché questa è l'altra condizione che noi teniamo sotto controllo. Cioè, ma non basta che siano sicuri, noi abbiamo precedenti di molte compagnie che erano sicure ma che non avevano più possibilità finanziarie e che sono state chiuse dall'ENAC, che ne abbiamo chiuse 6 o 7 nel corso di questi anni. Sostanzialmente lei ha smentito, non ha detto, non è vero che io ho detto dal 2 ottobre potrebbe rimanere a terra, anche perché mi sembra di capire che nella peggiore potrebbe rimanere a terra anche prima. Adesso io questa data del 2 ottobre non so da dove sia venuta fuori, naturalmente io non lo so, nel senso che se il commissario oggi o domani o tra 4 giorni mi dice: io non pago gli stipendi o ne pago una parte, taglio delle rotte, cioè accendo dei mutui, allora c'è un pacchetto di provvedimenti di emergenza che forse ci possono consentire di aspettare. Sì. Ma se questo non c'è, noi non possiamo aspettare, anche perché a livello internazionale ci stanno facendo tutti delle grandi pressioni e dei richiami, perché la IATA per prima, che è l'associazione compagnie aeree, vuole certezze, perché nel momento in cui vende dei biglietti in tutto il mondo vuole sapere se l'attività continuerà e se la compagnia è operativa. E allora, da questo punto di partenza, Ministro Matteoli, lei credo anche ieri l'ha ribadito, i giorni sono contati, però c'è un commissario straordinario, Fantozzi, che ha detto: ora apriamo a nuove possibilità. Perché il governo continua a dire o la CAI o niente? Ma noi continuiamo a dire non la CAI o niente, noi continuiamo a dire che per ora c'era solo l'offerta di CAI, che tra l'altro ora è stata ritirata. Fantozzi sta svolgendo il compito che il decreto legge gli ha assegnato, quello di cercare di trovare eventuali altri compratori. Allo Stato non ne ha trovati, perché è vero che oggi lui lancia una specie di bando, che poi di bando non si tratta, ma nei giorni scorsi lui ha cercato telefonicamente, di persona, di coinvolgere coloro che potevano essere interessati all'acquisto di una parte di Alitalia, e ha avuto sempre risposte negative. Quindi esiste soltanto l'offerta di CAI, che tra l'altro ora non esiste più nemmeno quella, perché è stata ritirata. Però oggi per esempio su Repubblica c'è scritto che Lufthansa si ribadisce, Lufthansa sarebbe interessata, ma un punto cruciale per la compagnia sarebbe una richiesta ufficiale da parte del governo, cioè non veniamo a trattare laddove già coi sindacati è difficile, e poi sappiamo magari a venire a trattare quando il governo non è d'accordo. Non è un voler tener duro in maniera anche pregiudiziale? No, assolutamente no. Se ci fosse un'altra proposta, il commissario Fantozzi avrebbe il dovere di esaminarla, perché non c'è scritto nel decreto che deve vendere a CAI, ma deve vendere al maggiore offerente. Ripeto, c'è solo l'offerta CAI, tra l'altro ritirata. Fantozzi ha parlato con Lufthansa e gli è stato detto che non era interessata, quindi Repubblica scrive questo, ma non risponde poi alla realtà dei fatti. Allora, Ministro, visto che poi cercheremo di capire, in base a quello che ci ha detto Vito Riggio, se il governo sta studiando, lei, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche un piano di emergenza nel caso nei prossimi giorni dovesse succedere l'impensabile. Però, visto che c'è Piero Fassino, lei in un'intervista ha anche accusato alcune parti del Partito Democratico di soffiare sul fuoco di un fallimento della trattativa. A chi si riferiva? No, in un certo momento della trattativa, oggi mi pare che questo francamente sia venuto un po' meno, dalle dichiarazioni che ho ascoltato da parte di Bersani, da parte dello stesso D'Alema, da parte del senatore La Torre, eccetera, erano molto critiche nei confronti del governo, anche dello stesso onorevole Fassini, nei confronti del governo, nei confronti della situazione all'Italia, non ci hanno risparmiato nulla, però poi dicevano bisogna concludere, no? Non mi sembrava che questo stesso atteggiamento lo avesse tenuto Veltroni oggettivamente. Questo perlomeno, se torniamo indietro di una settimana, questo è quello che mi pareva di registrare. Oggi forse consapevoli ancora di più che la situazione di Alitalia è veramente disastrosa, forse credo che nessuno, né tra la maggioranza né l'opposizione, gli faccia piacere di far fallire l'Italia e perdere 20.000 posti di lavoro. Questo francamente mi sento su, di dirlo. Su questo Piero Fassino vuole replicare a Matteoli e anche, voglio dire, alla novità che è sui giornali, voglio dire il fatto che Fantozzi cerchi o esplori altre strade. Ma noi abbiamo sempre lavorato per una soluzione e sostenuto che ci voleva una soluzione. Nessuno del Partito Democratico ha mai scommesso sul fallimento dell'Alitalia. Ricordo che il governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi avviò il processo di privatizzazione e si arrivò ad una soluzione, quella di un'integrazione di Alitalia in Air France, che era una soluzione forte e credibile e che non era semplicemente l'assorbimento della compagnia Alitalia nel gruppo Air France KLM, era l'integrazione con il mantenimento del marchio Alitalia, l'autonomia di gestione della compagnia e soprattutto nel momento in cui l'Alitalia si integrava in Air France KLM, il tesoro italiano, che è l'azionista, il governo, che è l'azionista dell'Alitalia, riceveva in cambio il 2% delle azioni di tutto il gruppo. Sarebbe bastato aggiungere dei soldi, per esempio quel 1,5 miliardi che adesso lo Stato deve fare per pagare i debiti di Alitalia, mentre invece nella soluzione originaria Air France se li prendeva i debiti, per far diventare quel 2%, magari il 6-7% dell'intera compagnia Air France KLM Alitalia, e così noi saremmo diventati gli azionisti della più grande compagnia mondiale. Tutto questo è stato fatto fallire e noi abbiamo criticato duramente l'irresponsabilità con cui è stata fatta fallire questa ipotesi, per poi mettere in campo un'ipotesi che Berlusconi ha venduto come immediatamente fatta, pronta, perché bastava che lui telefonasse a 20 imprenditori per risolvere. E poi si è visto che non era così. Ma da chi l'ha fatta fallire, secondo lei, Air France? Anche lì il governo, la loro opposizione? Il governo disse in piena campagna, o i sindacati, del voto, che non gradiva che i francesi venissero in Italia, cominciò a dire che avevamo fatto una svendita, mentre l'operazione è quella che ho appena descritto, che non solo non avrebbe svenduto, ci avrebbe fatto diventare azionisti della più grande compagnia mondiale, no? E naturalmente i francesi, di fronte al fatto che il governo prossimo dell'Italia era ostile alla loro presenza, si sono ritirati. Dopodiché la famosa cordata, che doveva essere pronta in 2 minuti, ci ha messo 4 mesi a essere fatta. Abbiamo dovuto fare un prestito dello Stato a fondo perduto che mai più sarà restituito, che tra l'altro è in infrazione della normativa europea. Si è fatto ogni tipo di strappo per favorire questa cordata, dal modificare le leggi antitrust, alle leggi sulla concorrenza, al commissariamento, tante cose. Il risultato qual è? È che siamo con i piedi nell'acqua. Allora, noi abbiamo criticato tutto questo, ma non abbiamo mai lavorato perché non ci fosse una soluzione, e anzi io e tutti gli esponenti del PD abbiamo sempre detto che alla soluzione bisognava arrivare. Ancora lunedì sera io con Sacconi sono andato nel giorno più drammatico a Porta a Porta e ho detto più volte che a questo punto bisognava cercare di arrivare a una soluzione, che invitavo il governo a fare di tutto per far tornare la CAI al tavolo del negoziato e con i sindacati trovare un accordo. E continuiamo a essere convinti che bisogna fare questo o comunque cercare una soluzione. Fantozzi ha fatto quello che avrebbe dovuto essere fatto all'inizio, anche questo va detto, e si è partito non con quello che Fantozzi fa oggi, e cioè dire tutti quelli hanno interesse lo dicano in fretta e così io posso valutare. No, si è partiti dando mandato a San Paolo Intesa di formare una cordata, la cosa che San Paolo Intesa ha fatto, escludendo che ci potessero essere comunque altre offerte fin dall'inizio, cioè non si è fatta solo una si è deciso di andare a una trattativa privata, si è anche deciso che lo si vendeva uno solo e si lavora per mettere in piedi quell'uno solo a cui si su vede. Questo ho anticipato la mia domanda al ministro Matteoli. Il risultato è che si è fatto un pasticcio. Ministro, adesso Fantozzi fa la cosa giusta, ma la fa molto tardi. Molto più su stretti. Questo ministro lei effettivamente stupisce un po', perché solo ora lei ha fatto prima fin dal primo momento. Però ministro, mi scusi, noi ci siamo sentiti proprio sul caso Alitalia quando era partita la vicenda e lei ha detto giustamente, cosa che ha ribadito anche oggi, non c'è una vendita esclusiva a CAI. Fantozzi doveva vendere al miglior offerente, diciamo. In quel momento CAI era l'unico, sostanzialmente, l'accordata. Perché però questa esplorazione di interessi che parte oggi non è partita allora? C'è stato giorno che Fantozzi non abbia esplorato altri ipotesi di compratori. Ogni giorno lo ha fatto, telefonando personalmente. Tra l'altro Fantozzi parla perfettamente il tedesco, quindi ha chiamato Lufthansa parlandoci con la lingua madre, ha chiamato tutte le altre compagnie più importanti, ha cercato in tutti i modi altri contatti. Questo è quello che ha fatto. Fantozzi, se non si fosse comportato in questo modo, sarebbe venuto meno a quello che è dettato del decreto in vigore. Questa è la realtà. Quando invece si chiede a Fantozzi di farsi carico di riaprire le trattative sindacali, non è lui, non ha questo compito Fantozzi. Lui non lo può fare, lo può sicuramente incontrare e fa bene a incontrarli, per carità, tutti coloro che vogliono aiutare la soluzione sono, come posso dire, autorizzati, anche pregati di farlo, ma i compiti di Fantozzi sono altri, quello di trovare un altro compratore. Questa è la realtà. Senta ministro, lei ha sentito Vito Riggio che è ancora con noi, adesso la liberiamo ovviamente Riggio per prepararsi all'incontro ben più importante col commissario Fantozzi. Ministro, c'è allo studio qualche piano nel caso dovesse capitare il peggio, certo, per Alitalia? Cioè potenzierete i treni? Il governo cosa farà? Io sono in contatto col presidente Riggio, non dico giornalmente, ma ogni ora, è ovvio. È venuto al Ministero anche venerdì, abbiamo messo intorno a un tavolo i tecnici del Ministero per studiare... qualora Dio non voglia ci sia il fallimento di Alitalia, è chiaro che il mio dicastero non è rimasto fermo per ogni evenienza, e lavoriamo naturalmente, ENAC dipende dal Ministero dei Trasporti e quindi delle Infrastrutture, quindi bisogna lavorare in completa, essendo informati reciprocamente. Il presidente Riggio, questo avviene quotidianamente. Però le chiedo concretamente, se dovessero da domani, facciamo un'ipotesi, non volare più i voli all'Italia, da dopodomani è già previsto che le tratte vengano coperte, oppure ci saranno dei giorni inevitabilmente di... Ci stiamo lavorando, lei capisce che è perfettamente che non è una cosa semplice, ma comunque al Ministero ci stiamo lavorando. Tutti dicono farla fallire, lei ha detto Dio non voglia. Sa che molti italiani la vorrebbero far fallire questa compagnia? Molti lo dicono, lo scrivono, ma facciamola fallire. Non è un dramma un'azienda che fallisce, cioè non è un dramma. Certo, ci sono i lavoratori, voglio dire. Ma sarà per un mio modo di pensare, per carità. Ma voglio dire, se fallisce l'Italia e non c'è più la nostra compagnia di bandiera, noi avremo nei prossimi giorni il Burundi con una compagnia di bandiera e l'Italia senza una sua compagnia di bandiera. Ma a lei non piace, però voglio dire... francamente ecco, questa situazione a me non piace. Perché sono al governo, ma anche se fossi stato all'opposizione. Però scusi, la SAS per esempio, che non è una compagnia di bandiera, raggruppa insomma Svezia per esempio, Danimarca eccetera, non hanno una compagnia di bandiera e vanno benissimo, voglio dire, non lo impone il medico di avere una compagnia di bandiera. Io ho espresso questo mio, ripeto, sarà sentimentalismo, lo giudichi lei, ma mi dispiacerebbe molto che questo avvenisse. Al di là poi del fatto che oggi attraverso la proposta CAI si salvano 12.500 posti di lavoro direttamente e si salvano circa 3.500 posti di lavoro per quanto concerne la manutenzione pesante e ATTEC di Napoli, quindi oltre 15.000 posti di lavoro. Mi pare che questo sia importante, e coloro che saranno purtroppo fuori dal circuito avranno una cassa integrazione a mobilità lunga per consentire di trovare un'altra sistemazione. Allora, il primo ascoltatore è l'800240024, poi faccio ancora una domanda a Vito Riggio e lo libero prima della pubblicità. Giancarlo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, io intanto per precisare che questa mattina nell'area briefing dell'aeroporto di Fiumicino ci saranno anche delle delegazioni dei rappresentanti di terra, proprio al fine di parlare, di confrontarsi con i piloti, gli assistenti di volo, in considerazione anche delle esultazioni che hanno fatto. Infatti l'abbiamo detto in apertura, alle 9:30. Avete precisato solo che c'erano rappresentanze di piloti e di assistenti di volo. Lei invece è della... Così lo io sono un dirigente della Ultrasporti. Perfetto, ci sarà anche lei. Bene. Per che cosa? Vuole fare un intervento oltre a questo? No, oltre a questo è dire appunto perché cercheremo questa mattina di incontrarci con i piloti, con gli assistenti di volo, come personale di terra, anche a confronto, in considerazione appunto di quello che è stato il discorso delle esultazioni. Quindi cercare di parlarci, ragionare, cercare di riportare il tutto in una soluzione che sicuramente potrebbe essere ancora sul tavolo. Che immagino a lei abbiano dato fastidio, la UIL ha firmato, ricordiamo, la UIL Trasporti, queste esultazioni. Va bene, Giancarlo, io la ringrazio. Vito Riggio, nel liberarla, lei è ottimista o no nell'incontrare Fantozzi? Ma guardi, io sto ai fatti, perché questo è il mio compito. E che le dicono di essere ottimista o no? Il fatto in questo momento non mi fa essere ottimista, perché come ha detto Fazzino, al di là del dato formale, c'è stata una lunga ricerca dal 2 settembre di contatti, almeno informali, che finora non hanno prodotto nulla. C'è stata un'offerta che è stata ritirata, la condizione di liquidità era già pessima al 2 settembre, immagino che sia peggiorata. Se non ci si presenta un piano davvero forte e efficace, non so davvero quale possa essere, io la vedo molto male, insomma, per cui... Vabbè, con questo pessimismo che speriamo cambi con, non so, un colpo di teatro nel giro di mezz'ora. Io, Presidente, la ringrazio per essere stato con noi. Vito Riggio è Presidente dell'ENAC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile. Avete sentito, il pessimismo aleggia. Tra poco l'incontro col commissario straordinario Fantozzi. Onorevole Fassino... le critiche al governo sono state fatte dal Partito Democratico, anche se con responsabilità dire si cerchi di salvare il salvabile, il fallimento anche per voi è il peggio, immagino. Critiche ai sindacati invece per come hanno gestito anche Air France e anche oggi? No, io non... le critiche che facciamo al governo non escludono naturalmente anche delle riserve su dei comportamenti da parte delle organizzazioni sindacali. Non dimentichiamo che in Italia ci sono un numero di sigle sindacali molto ampio e che questo rende tutto più difficile. Io penso che i sindacati tutti in Italia si debbano rendere conto della drammaticità della situazione e che quindi bisogna concorrere ad una soluzione, non pensando che c'è sempre un minuto di più per trattare una condizione migliore, che è un po', come dire, nella logica sindacale, ed è anche giusto quando, diciamo, le situazioni sono governabili e non sono di emergenza. Quando si arriva sulla soglia del fallimento, pensare che c'è un minuto di più per contrattare meglio rischia di essere soltanto un'illusione con esiti che possono essere catastrofici. Quindi io penso che bisogna sollecitare le organizzazioni sindacali a questo punto anche loro a farsi carico di una situazione drammatica e quindi a concorrere ad un accordo. Io ricordo che CGIL, CISL e UIL un accordo quadro lo hanno firmato. Poi la CGIL ha sostenuto una cosa che non è irragionevole, e cioè che essendo per fare arrivare a un accordo definitivo che poi consenta all'Italia davvero di uscire da queste condizioni drammatiche, occorre l'accordo di sindacati rappresentativi di ogni categoria di lavoratori, e se non si trova un accordo con i due sindacati dei piloti, che sono due sindacati autonomi, non della CGIL, ma con due sindacati che rappresentano la stragrande maggioranza dei piloti, il rischio è che un accordo firmato dalle altre sigle sindacali possa essere difficile da mettere in campo. Il rischio contrario però è che la corporazione, come qualcuno ha detto, dei piloti possa bloccare il tutto, tanto che qualcuno ha detto provocatoriamente ma prendiamoli all'estero i piloti facciamoli volare sulla Alitalia. Questa obiezione naturalmente ha un senso, per questo bisogna invitare tutti i sindacati, compresi quelli dei piloti, a farsi carico della situazione e non chiudersi in una logica corporativa. Per esempio, nelle ultime ore è successo un fatto positivo: il personale di volo non pilota, cioè il sindacato che riunisce le hostess e gli steward, ha detto, che aveva la posizione iniziale rigida del sindacato dei piloti, ha detto: noi siamo pronti a discutere, a negoziare. C'è un elemento nuovo però, secondo me, nelle ultime ore, che forse andrebbe chiarito meglio, cioè la CAI, dal momento della rottura delle trattative, ha ripetuto come dire, un disco: la partita chiusa, si è rifiutata di accedere a qualsiasi ripresa di negoziato. Vorrei sapere, è soltanto perché si ritiene che non ci siano le condizioni o c'è una difficoltà in questa accordata? E detta più chiaramente, non vorrei che ci fosse qualche imprenditore di questa accordata che ha detto di sì perché gliel'ha chiesto Berlusconi, cioè il Presidente del Consiglio, ma in realtà in cuor suo non era affatto convinto di mettere i soldi in un'operazione di cui non ravvisava l'utilità. Quindi e ha trovato il modo di sfilarsi appena possibile. Sì, qualcuno ha anche detto, forse sentirsi chiamare in quello slogan meglio falliti che banditi non ha fatto piacere. Ieri leggevo per esempio Riva, che è uno degli imprenditori, ha detto: io in 80 anni di vita, insomma, bandito, tante rivendicazioni sindacali ho dovuto affrontare, ma bandito non me l'ha mai detto nessuno. Due ascoltatori, poi torno dal ministro Matteoli. Luigi dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sono lì da un po', Luigi, dica. Per non rubare tempo, sì, sarò telegrafico e mi rivolgo a tutti i partecipanti, compreso lei, giornalista, a cui do atto di uno sforzo di oggettività e di equilibrio. E, l'onorevole Matteoli, il suo predecessore, il ministro alle infrastrutture, competente almeno quanto lui, quando a Fiumicino ha ricevuto gli applausi, non li ha ricevuti perché l'Alitalia falliva, li ha ricevuti perché ha spiegato correttamente, come l'informazione dovrebbe essere, lo stato delle cose, primo. Secondo, ha invitato il governo a formulare una proposta che non fosse tutta a carico degli italiani. Terzo, il ministro Fassino, l'onorevole Fassino, nelle cui file il ministro Di Pietro, l'onorevole Di Pietro, è stato eletto nel Mugello, dia atto all'onorevole Di Pietro che il Partito Democratico si sta occupando male di tutta questa vicenda. Quinto, il governo attuale. Telegrafico, non è proprio un telegramma questo, no, Luigi. Ho tralasciato le premesse. Sì, sì. Il governo attuale, se fosse interessato alla vicenda, dovrebbe ripetere un prestito ponte come il governo Prodi. E per ultimo, un altro prestito. Certo, perché c'è poco tempo e il 30 settembre è troppo poco. È stato chiarissimo, tempo. Luigi, l'ultimo punto se lo tenga, perché sennò non diamo spazio ad altri. Vabbè, lei sicuramente è un fan di Di Pietro, ricordiamo che ha detto il predecessore di Matteoli, poi era anche Di Pietro. Vabbè, ma ha detto la sua, grazie Luigi. Roberto da Roma. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno a lei, gli ascoltatori, all'onorevole Fassino. Senta, io mi rivolgo all'onorevole Fassino per una notizia che viene spesso tralasciata. Quando c'è stato l'accordo Air France, lei sa benissimo che l'Alitalia è divisa in due grandi società. Alitalia, prettamente, che è composta dal personale viaggiante e assistente di volo, e Alitalia Servizi, che comprende manutenzione, informatica, amministrazione. L'accordo Air France escludeva completamente questa seconda società, Alitalia Servizi, di circa 5-6 mila persone. In Air France confluiva soltanto all'Italia Volo, sì, e all'Italia Servizi veniva smembrata e basta. Quindi non era un buon accordo, insomma. No, assolutamente, adesso io non ma sono... lei ci lavora, mi scusi, perché sì, lavoro, sono indipendente all'Italia. Sì, sono dipendente all'Italia in terra, nel settore informatico. Ah, ce lo dica, perché è importante il punto di vista dall'interno, ci dica. Sì, quindi la viviamo giornalmente questa situazione. Non solo, quando nei primi mesi, ecco, c'erano gli ultimi incontri con Spinetta proprio alla Magliana, venimo scelti due persone per informatica, due per amministrazione, due per manutenzione, per essere convocati in rappresentanza di Alitalia Servizi per poter parlare con questo nuovo proprietario. E lui tranquillamente ha detto: ma a me l'Alitalia Servizi non interessa assolutamente, A me interessa la parte volo. Adesso io una cosa che lamento è questo, e quando saltò l'incontro, quando saltò Spinetta, si ritornò in Francia, la CGIL proclamò proprio vittoria, perché era i delegati CGIL all'interno cantarono vittoria, sì, per avere evitato questa colonizzazione straniera. Qualcuno adesso ha cantato vittoria anche oggi, capisce che poi Roberto... Infatti questa è la cosa paradossale, adesso io non sono di nessun partito, eccetera, però vedo molto, molto, molta influenza politica, o si è contro Berlusconi, o si è fuori Berlusconi, o si è con Walter Veltroni, o si è contro... No, è stato chiarissimo. Su questo, Ministro, la politicizzazione dell'Italia è un leitmotiv che c'è da quando esiste la compagnia. Sì. C'è anche stata in questa trattativa, come ha detto l'ascoltatore, che però è un dipendente, a dire o se si è contro o se è a favore Berlusconi, ci si comporta in un certo modo. Sì, però guardi, io non voglio seguire questa strada che ci porta indietro. È il Franz. Il Franz non si è concretizzato l'accordo perché i sindacati non l'hanno voluto. Lì c'era un altro governo, Berlusconi poteva essere contrario quanto voleva, però se si voleva chiudere, se c'erano i presupposti per chiudere, lo potevano fare, perché i ministri erano altri. Però con le elezioni imminenti, lei, sì, fosse certo, stato Air France, no, si sarebbe messo in una trattativa, poi magari col governo... Certamente, questo lo capisco perfettamente. Comunque c'è stata una presa di posizione di Berlusconi che io condivisi allora e condivido ora, c'è stata una presa di posizione dei sindacati anche allora contraria. Però a me interessa molto dare... Poi i tifosi di un partito, di un esponente politico, per carità, ora ci sono sempre stati e ci saranno sempre, però ora c'è bisogno di ragionare con buon senso e raziocinio. Voglio dire a Fassino che io escludo nella maniera più assoluta che quegli imprenditori che hanno aderito e hanno costituito la società CAI, ci sia uno solo che vuole sfilarsi. Questo lo escludo nella maniera più assoluta, perché per i contatti che ho avuto, per le cose che naturalmente, per il ruolo che ricopro, so anche direttamente, quindi nessuno voleva assolutamente escludersi. Il problema è questo: quando siamo entrati in trattativa, la CAI aveva detto che voleva assumere 11.500 dipendenti. Alla fine del negoziato la CAI aveva detto che avrebbe assunto 1.000 persone in più. La CAI all'inizio della trattativa aveva detto che tutti i dipendenti dovevano fare sacrifici, che dovevano guadagnare un po' meno per consentire di salvare all'Italia. Al termine della trattativa avevano accettato che tutti i dipendenti di terra avrebbero guadagnato la stessa cifra che guadagnavano prima, e per quanto riguarda i piloti ci sarebbe stata una decurtazione del 6%, però se avessero volato di più avrebbero guadagnato la stessa cifra. Sì, una maggiore produttività per guadagnare la stessa cifra. E su questo, guardi, Ministro, diamo un attimo le informazioni sul traffico, poi ripartiamo l'ultima parte di Viva Voce. Tra l'altro poco fa si è espressa in qualche modo anche Lufthansa, che si è espressa, ha detto guardiamo con attenzione lo sviluppo del mercato, ma no comment per quello che riguarda un nostro interesse. Quindi se è espressa non esprimendosi, sostanzialmente una frase un po' così che non svela molto di più. Io prima degli ascoltatori, che sono tanti, sono lì, vi do la parola, ma devo dare la precedenza anche perché so che ha poca batteria, a Antonella Celletti, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prima pilota donna, si capisce dalla voce, dal nome, ma devo dire pilota donna, perché pilota è pilota, di Alitalia. Lei ieri sul Sole 24 Ore ha scritto una lettera che il Sole 24 Ore ha pubblicato, sostanzialmente a dire: eccomi qui, sono una pilota, ma non è vero che tutti i piloti siamo contro, anzi è stato sbagliato rifiutare quell'accordo. Perché? È sbagliato. sbagliato rifiutare, perché comunque la gente, io credo che ancora non sappia esattamente i termini dell'accordo, non li conosca bene, e comunque che non abbia molto riflettuto sulle possibili alternative che noi abbiamo, che sono praticamente secondo me molto ridotte nonostante abbiano riaperto l'asta, e poi che comunque non è un pessimo accordo, non è un cattivo accordo, e che in ogni caso stiamo rischiando il nostro posto di lavoro, e questa è la cosa più importante, e dobbiamo salvaguardarlo e cercare di difenderlo. Senta, quando lei sente parlare di casta dei piloti o corporazione dei piloti, di stipendi da favola e di hotel prenotati quando si vuole, di poche ore di volo, lei che come reagisce? No, vabbè, certo, queste sono tutte illazioni, sono strumentalizzazioni, mi indigno perché non è vero, perché in realtà non sono più quei tempi lì, ormai da moltissimo, e il nostro lavoro è diventato molto molto pesante, molto duro, e non è assolutamente vero tutto quello che dicono. Ogni volta assistiamo sempre a questo discorso che francamente ci fa arrabbiare, e noi siamo una categoria di lavoratori che in questo momento sta lavorando sodo e che difende le proprie peculiarità, il proprio diritto di lavorare. Beh, però insomma è un bel lavoro, sì, è un lavoro molto qualificato, una responsabilità, avete vite umane come responsabilità, però è ben pagato, questo almeno sì, possiamo dirlo. No, perché oggi il riformista fa le pulci degli stipendi, si parla di 115.000 sì, euro. Può fare quello che vuole, però è tutto relativo il mondo, cioè ben pagato rispetto a che cosa, rispetto a che cosa si dà e che cosa si fa. Certo, bisogna vedere cosa ci ha richiesto. Io devo fare 3 esami all'anno per dimostrare che so fare quello che so fare. Non credo che un medico sia testato 3 volte l'anno, per esempio. Eppure il medico guadagna molto più di noi. No? Ma adesso arriva anche Brunetta, anche sui medici. Comunque sì, le chiedo... No, ma io non è che sto perorando l'abbassamento per gli altri. No, io sto dicendo che è tutto relativo a quello che uno fa. Certamente noi difendiamo la nostra categoria, anche perché non è così come dicono. Tutti questi privilegi non li abbiamo, non è vero, perché ho sentito delle cose veramente scandalose che hanno detto di noi, sì. E che comunque se è un minimo pagato è perché il motivo c'è. Però le chiedo, comandante Celletti, non è questo il modo secondo lei di aver difeso la categoria? Cioè non è d'accordo con il muro che è stato fatto dall'Unione Piloti e dall'ANPAC, mi pare di capire? No, personalmente io non sono d'accordo, soprattutto perché la decisione che hanno preso, secondo me, è una decisione presa affrettatamente, senza avere consultato la base, e che quindi una decisione di questo tipo richiede un consenso larghissimo, perché è una decisione importantissima. Qui non si tratta di un contratto normale, ma si tratta del nostro posto di lavoro. Quindi io, che qualcuno decida il mio futuro, che è un futuro importante, in questo modo non mi va bene, prima almeno di avere consultato me e molti altri. Io ritengo che questo non sia avvenuto, se non altro bisognava allargare a tutti la possibilità di dire la propria, e non solo, bisogna che tutti però siano veramente a conoscenza di che cos'è la posta in gioco e di quali sono i termini di questo accordo, che invece non è. Allora io, comandante Celletti, la ringrazio per essere stata con noi. Antonella Celletti, che insomma ha creato un po' il caso con questa lettera pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Ministro Matteoli, abbiamo 30 secondi per concludere. Siccome Vito Riggio ci ha detto che è più pessimista, insomma non vede a meno di un colpo di teatro, e si parla di 3-4 giorni e la licenza potrebbe essere ritirata, anche lei fa queste previsioni infauste? Ripeto che c'è un solo modo per tentare di riaprire la possibilità che CAI acquisti all'Italia, che le sigle sindacali che fino ad ora non hanno firmato si decidano a firmare, dopodiché il governo, allora solo a quel punto il governo può tentare di richiamare CAI, che come è nota ha ritirato l'offerta. L'ipotesi di che credo sia l'unica strada possibile. L'ipotesi di un nuovo prestito, come diceva l'ascoltatore. Ma se il prestito che è stato fatto di 300 milioni di euro, c'era un altro governo, ma concordato con l'opposizione, questo anzi, devo dire di più per onestà intellettuale, che il governo precedente voleva fare un prestito di 150 milioni. Noi dell'opposizione dicemmo che era insufficiente e concordammo i 300 milioni. Però basta, dice. ha preso la posizione che ha preso, non è assolutamente più pensabile che il governo possa fare prestiti ponte. Perfetto, la ringrazio Ministro, con questo ci fermiamo. In redazione Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi e Giorgio Matè in regia, noi ci risentiamo domattina. Viva voce.